Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Piacenza, la storia del tessuto, di Alessandra Scaglioni. La storia d'impresa che raccontiamo oggi è una storia a due voci che ha origini molto lontane. Le prime testimonianze sono addirittura del 1600. La data di fondazione dell'azienda è il 1733. Inizio 600, 1610-15, dove noi approdiamo nel biellese da Piacenza, come è il nostro cognome. Piacenza e Cremona, lì ci sono due, però soprattutto Piacenza. E arriviamo nel biellese e incominciamo appunto a lavorare la lana, dove i contadini tessevano a mano la stoffa e noi in una, vicino al torrente nel nostro paese di Pollone, in un caseggiato che c'è ancora adesso, veniva finita la lana, tessuti che poi venivano mandati in tutta Italia. Guido Piacenza rappresenta la famiglia tutt'oggi proprietaria dell'azienda, che produce abbigliamento e tessuti di alto livello e che ha attraversato oltre 300 anni di storia, con passaggi storici e incontri importanti. Eh sì, un passaggio importante per quello che concerne proprio la tessitura, che si è passati da un telaio a mano a un telaio meccanico. Perciò questo avveniva verso il 1800, prima metà dell'Ottocento, 1820-1830, perciò era necessaria l'energia, perciò è per quello che poi più tardi Cavour fu ospite da noi a Pollone. C'è ancora il letto con la targhetta, col baldacchino dove lui passò la notte, ospite del mio bisnonno Giovanni, appunto per discutere questi problemi di come approvvigionarsi di energia. Ci sono molte cose nella storia della famiglia Piacenza: la prima guerra mondiale e il primo dopoguerra, i viaggi all'estero della famiglia che a partire dagli anni 20 aprono la strada ai filati più pregiati, il cashmere dell'Alashan o la vigogna, ricavata dal vello di un camelide andino. Nel 1930 i tessuti rivolti all'abbigliamento per l'alta moda. Un punto importante: noi facevamo un tessuto di draperia, cioè per uomo, soprattutto per uomo. Quando mio padre Enzo dal 1930 incominciò a occuparsi dell'azienda, ci fu una svolta molto importante, perché lui apportò la moda. Lui era più che un industriale un artista, perciò sviluppò un campionario di tessuti da donna fantasia e fu il primo italiano a esportare alla haute couture di Parigi, che era totale dominio dei fabbricanti francesi. Poi ci fu il periodo autarchico, dovendo adoperare le fibre locali, tra cui coniglio, pelo di coniglio che arrivava da Alessandria, eccetera. E diventò poi cavaliere del lavoro nel 1940, appunto per questo fatto qua. Dalla produzione per il dettaglio e per i sarti, nel dopoguerra arriva all'industria dell'abbigliamento, che richiede tecniche di lavorazione ancora diverse. Nel dopoguerra, da una produzione che era destinata al dettaglio di taglia e ai sarti, i cosiddetti carnetisti, la produzione incominciava ad essere fatta per l'industria, per i confezionisti, i quali avevano delle esigenze industriali, cioè la stoffa doveva essere praticamente come morta, non doveva restringersi, non doveva muoversi. Siccome la lana è una fibra viva, bisognava in un certo momento durante la lavorazione renderla almeno viva possibile per poterla tagliare e confezionare senza che reagisse restringendosi. Essendo viva dipende anche dalle temperature e dalle umidità. Perciò l'industria aveva bisogno di un tessuto da poter tagliare in materassi, e cambiato abbastanza il finissaggio della stoffa. La famiglia Piacenza è proprietaria al 100% dell'azienda, ma da qualche anno si è deciso di affidare la gestione a un manager esterno. Stiamo studiando adesso, mettendo a punto i patti di famiglia e lo statuto anche dell'azienda, eccetera, per limitare questo, per controllare questo fatto qui, come tante aziende anche qui nel Biellese, senza fare dei nomi, o anche nel Novarese o altri posti che dove ci sono 20 o 30 membri della famiglia, bisogna dare delle regole per poter essere un numero giusto, ecco, non troppo. Perciò lì sono proprio i patti di famiglia e eventuali modifiche dello statuto. Dal 2007, quindi, a guidare, in accordo con la famiglia Piacenza, le strategie di produzione e vendita dell'azienda è l'amministratore delegato Fabio Foschi. Noi abbiamo, all'interno dell'azienda, abbiamo due anime che sono ugualmente sviluppate. Un'anima è quella del tessuto, che è quella che si riallaccia alla nostra tradizione, che, come detto prima, ha origine dal 1733, e poi abbiamo un'anima per quanto riguarda il prodotto finito di abbigliamento. In ambedue i casi noi siamo completamente integrati, siamo un'azienda di medie dimensioni, quindi non siamo grandissimi, però abbiamo un'integrazione di filiera completa, nel senso noi partiamo dalla materia prima che acquistiamo e arriviamo fino al capo finito. E di recente abbiamo anche iniziato un'avventura nel settore retail, aprendo il primo negozio monomarca a Milano, quindi siamo completamente integrati. I tessuti prodotti si chiamano cashmere, alpaca, lana e in generale fibre pregiate. L'acquisto della materia prima avviene all'estero. Tutta la produzione avviene però in Italia per una precisa scelta strategica che ha a che fare con il complesso processo di lavorazione necessario per la produzione di tessuti pregiati e con il valore del know-how. Abbiamo pensato su questa cosa e siamo giunti alla conclusione che non era, dal nostro punto di vista, utile, perché innanzitutto c'è un problema di professionalità della manodopera che sarebbe stata difficile reperire, perché comunque per andare all'estero, se devo andare all'estero, vado in una nazione a basso costo e le nazioni a basso costo non erano in grado di garantire questo tipo di professionalità. E secondo, perché il nostro prodotto ha un elevato contenuto di know-how che preferiamo gestire nell'ambito di un contesto che possiamo meglio controllare, perché poi all'estero è un attimo che qualcuno cerca di rubare questa e quell'altra idea. E quindi sostanzialmente, avendo la fortuna poi che il mercato riconosce un premio al vero Made in Italy e a un prodotto di contenuto, abbiamo preferito mantenere esclusivamente una produzione italiana, perché è quella che poi garantisce la continuità nel tempo, nel senso, io conosco dei colleghi che operano in mercati diversi, che sono andati prima in Bulgaria, poi in Tunisia, poi in Cina, poi in Vietnam e poi andranno chissà dove alla ricerca del minor costo possibile. Questi miei colleghi fanno bene perché hanno prodotti di un certo tipo, ma col nostro prodotto questo tipo di inseguimento al ribasso è impossibile, anche perché voglio dire, ci vogliono 2, 3, 4 generazioni di operai, di forza lavoro per creare sul territorio un certo tipo di know-how, e quindi io non posso comunque pensare di saltare da un paese all'altro alla ricerca del minor costo possibile. Quindi da questo punto di vista è stata una scelta facile, non è stata una scelta difficile. Per l'azienda il fatturato è in ripresa dopo la crisi e ha un'unica sede produttiva nel Biellese. Diciamo, la nostra è un'azienda che ha un perimetro per quanto riguarda il fatturato compreso tra i 30 e i 40 milioni di euro a seconda degli anni, soprattutto negli ultimi anni c'è stato un po' di altalena. Per quanto riguarda il 2011 prevediamo circa 33-34 milioni di euro. Siamo complessivamente 200 persone e questo è un nostro punto d'orgoglio. Abbiamo un'unica sede, che è la nostra sede di Pollone, che è anche l'unica sede produttiva. Quindi noi siamo al 110%, se così si può dire, made in Italy. Tranne la fibra, ovviamente, perché in Italia non si allevano le capre di cashmere, nemmeno le alpache. Quindi è chiaro che la fibra viene importata, però è da lì in avanti siamo made in Italy. Per la vendita, invece, il mercato è sia italiano che internazionale, ma le percentuali di fatturato sono da leggere con attenzione. Allora, percentuale di fatturato gliela dico, ma può essere fuorviante, perché percentuale di fatturato numerica è 60% Italia, 40% estero. Però, siccome la tradizione della confezione italiana è fortissima, noi abbiamo dei clienti, per esempio americani, che confezionano in Italia e quindi io fatturo un terzista italiano quando vendo a delle grandi case di moda che non cito per questioni ovvie, vendiamo direttamente a loro, però poi la fattura è una fattura Italia, quindi c'è questo effetto qua. E poi c'è un altro effetto che è quello legato al fatto che quando io vendo alle grandi case produttrici italiane, le grandi Grif, le più prestigiose che potete immaginare e che ancora non cito, ovviamente poi loro confezionano in Italia, ma poi esportano un po' dappertutto. Quindi in termini di fatturato numerico, come ho detto, in termini di dipendenza dai mercati esteri rispetto a quelli italiani, diciamo che probabilmente si inverte quel numero. Noi credo che dipendiamo probabilmente per un 60-70% dal mercato estero. La concorrenza estera, e soprattutto cinese, in questo caso non è un timore. È visto sia da Guido Piacenza che da Fabio Foschi come un possibile mercato. Sono venuti, hanno visto, non sono stati qui una settimana, non ho capito niente. Così ripeto le sue parole, perché come se andassi a vedere uno che dipinge, fa un quadro, insomma, vabbè, mette del giallo, fa qui, fa là, adesso mi metto anch'io lì. No, diciamo che noi vediamo la Cina più come opportunità che non come rischio, perché loro non hanno la nostra cultura di prodotto, non hanno la nostra manodopera specializzata, e quindi da un punto di vista di concorrenza verso di noi non c'è. Esiste invece un'opportunità per quanto riguarda una certa fascia di mercato che si sta aprendo anche in Cina, dove abbiamo già dei confezionisti cinesi di fascia alta che amano avere dei tessuti come i nostri, made in Italy, con determinate caratteristiche per fare dei capi di assoluto prestigio, però made in China in senso buono, no? Nel senso, arricchite dal nostro contenuto di tessuto, però sicuramente su una fascia alta, medio alta. E questo significa che sostanzialmente, se nella nostra fascia riusciamo a vendere in Cina, vuol dire che abbiamo delle esclusività di prodotto assolutamente uniche, se no se lo farebbero loro. E attraverso le varie epoche l'azienda ha attraversato la storia del tessuto, che è raccolto oggi in un piccolo museo per studiare il passato ma anche per il futuro. Ci sono appesi tutti i tessuti campioni e campionari nei libri, ma ci sono proprio dei campionari di stoffa che saranno tre palmi per due palmi, per dire, che si può toccare e vedere, diviso per anno, diviso per collezioni, e perciò è molto interessante perché si vedono tutte le tendenze, tutte le mode che ci sono state, i passaggi proprio, come dicevamo prima, da un tipo di lavoro per sarti a quello per confezionisti, si vede proprio anche i tipi di tessuto. Difatti sovente i disegnatori vanno a ramestare un po' in queste vecchie idee per trovare delle nuove idee, ecco, i vecchi campioni che risalgono proprio parecchi decenni indietro. Ecco. Sì, è un archivio molto molto ricco, ed è un archivio al quale diamo un accesso selettivo ai nostri clienti più importanti, quelli con i quali lavoriamo a più stretto contatto, perché ad esempio, non so, uno dice, ecco, adesso torna di moda gli anni 60, i rombi quadrati, le spirali, queste cose qui, viene da noi, guarda cosa abbiamo in archivio. Poi chiaramente non è mai lo stesso tessuto, perché poi le esigenze di confezione sono diverse, eccetera eccetera, viene però rielaborato sulla base di quello che è il tessuto d'archivio, no? Quindi una versione, un po' facciamo la nuova 500 rispetto alla 500, capito cosa intendo dire? Cioè ricreare determinate atmosfere, determinati feeling attraverso lo studio dell'archivio, per fare comunque un prodotto moderno. Devo dire che questa qui è una cosa che i nostri clienti apprezzano tantissimo. Nei 150 anni dell'Unità d'Italia, Fabio Foschi ricorda in particolare due testimonianze che riguardano la famiglia Piacenza. Noi abbiamo due spunti su questo tema. Uno è la rappresentazione della famiglia Piacenza che brinda la vittoria di Solferino, che compare in un quadro che fa parte della collezione privata della famiglia Piacenza, a testimonianza di quanto la famiglia Piacenza fosse sostenitrice e fautrice dell'Unità d'Italia. E invece, in aggiunta a questo, abbiamo anche un telaio dell'epoca risorgimentale che è stato donato al Museo Nazionale del Risorgimento di Torino e fa bella mostra di sé oggi nella versione rinnovata del museo, al centro di una sala, ed è nell'atto di tessere una bandiera, perché chiaramente è un telaio che ai tempi è anche pensabile e immaginabile con un certo realismo che abbia tessuto i drappi che poi hanno fatto le prime bandiere. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.